La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici, questa è La Rosa Purpurea, l'appuntamento con il cinema di Radio 24, weekend di passaggio fra giugno e luglio e ancora qualche film che vale la pena raccontare qui in radio prima di essere visto sul grande schermo. Una puntata ricca di film nuovi o appena usciti, parleremo di un cinema anche molto musicale, ma comunque entriamo nel clima e nei temi della trasmissione con i nostri titoli di testa. Alec Baldwin, Paul Giamatti, Tom Cruise. Cast tutte stelle per Rock of Ages. Omaggio al rock anni 80 in un film di Adam Shankman, il regista di Hairspray, con una colonna sonora che svaria fra i Def Leppard e Bon Jovi. Musical pop. Una grande prova d'attore per Martin Sheen, protagonista de Il cammino per Santiago, diretto da suo figlio Emilio Estevez. Un padre vola in Europa per esaudire il sogno del figlio morto sulla via dei pellegrini, per Santiago de Compostela. 30 anni dopo il capolavoro di John Carpenter, torna al cinema La Cosa in un nuovo remake. La storia è la stessa. Un gruppo di ricercatori arriva in Antartide per studiare un'astronave ritrovata intrappolata fra i ghiacci, che si rivelerà la dimora di una creatura di altri mondi. Ancora una commedia dalla Francia, Vita e amori di Marc Maronnier, critico letterario per cui l'amore dura 3 anni. Tanto ci ha messo a disfare il suo matrimonio e tanto sembra durare la sua nuova avventura sentimentale. Ma le convinzioni sono fatte per essere smentite. E allora cominciamo con la musica, abbiamo detto. Rock of Age è un musical, premiatissimo musical di Broadway, che diventa cinema, diventa film. Una trama, se vogliamo, abbastanza esile, quella di un ragazzo che sogna di fare la rock star di un locale alla fine degli anni 80 a Los Angeles, Bourbon Club, che sta per essere demolito. È un locale ricco di grandi fantasmi del rock e chiaramente di una musica rock melodica di quegli anni che suona per tutta la durata del film. Un film che vi vogliamo raccontare oggi, non abbiamo avuto purtroppo lo spazio settimana scorsa per raccontarvelo, ma è già nelle sale da qualche giorno, però lo trovate ancora in maniera abbastanza massiccia. Allora entriamo meglio nel clima ascoltando questa clip. Il tuo primo album ha dato vita ad alcuni tra i più grandi inni del rock. Cosa si prova a essere il grande Stacy Jackson? Stacy, ce l'hai fatta! Che bello! Sì, che bello! No, lui si chiama Che Bello. Che bello! Quando ero piccolo volevo diventare Stacy Jackson. Sei una cantante, hai anche molto talento. Il palco è un piedistallo. E quando sei lassù, sei intoccabile. Questo locale è assolutamente privo di regole. La nostra esistenza dipende da Stacy Jackson. Noi li faremo chiudere. Dio, ho appena vomitato. Dove? Nelle mutande. Ecco, questo per darvi un po' il clima anche di questo film, tratto da un musical di Broadway, appunto Rock of Age, un omaggio alla musica rock degli anni 80, dei tardi anni 80 americani e non solo, un film che adesso arriva al cinema e che ha messo insieme e ha collezionato un cast davvero straordinario, di grande livello e popolarità. Basti pensare appunto alla presenza contemporanea di gente come Tom Cruise, come Paul Giamatti, come Alec Baldwin e via dicendo, Catherine Zeta-Jones, insomma cast molto molto affollato, per raccontare appunto, fare una sorta di revival di quella che è stata la musica rock melodica o pop rock degli anni 80, che aveva appunto in personaggi come Bon Jovi, per dirne uno, i suoi interpreti di riferimento. La storia non è che sia il massimo dell'originalità, è la solita storia, anche qui come anche in un musical che abbiamo recentemente, negli ultimi mesi, visto anche in Italia, We Will Rock You, la storia di alcuni, di un paio di giovani, di ragazzi, lui che sogna di fare la rockstar, di diventare una rockstar, al cospetto di un locale, il Bourbon Club di Los Angeles, che deve essere demolito e che quindi è anche pieno di fantasmi del rock che si è suonato. suonato e appunto tanta musica, con un filo conduttore che è un protagonista, un personaggio leggendario, Stacey Jacks, appunto questo rocker interpretato da un Tom Cruise in grandissimo spolvero fisico. Proprio è un film, tra l'altro, che richiede una fisicità di un certo tipo. Sentiremo poi Tom Cruise anche come si è preparato per questo ruolo, perché ha dovuto anche imparare a muoversi da rockstar e a cantare, se proprio non da rockstar, di qualcosina si può fare anche in post-produzione, ma insomma a cavarsela in un certo senso. Boris Sollazzo è già in collegamento con noi, lo voglio coinvolgere. Boris, dicevamo, trama piuttosto esile, piuttosto fragile, come del resto anche quella del musical di Broadway, che voleva essere soprattutto uno spettacolo pieno zeppo di musica di quegli anni. Però mi sembra che funzioni bene l'alchimia fra il tipo di musica e anche il tipo di impostazione della regia, che è molto anni 80, piena di dissolvenze, di quella tipicità appunto dell'immagine anni 80 che il rock si era dato in quel periodo. No, assolutamente d'accordo, e devo dire, adesso non voglio far arrabbiare i puristi del genere, ma il musical secondo me per natura ha una debolezza di trama viene sostituita dalla musica, appunto, e dalle canzoni che fanno da trama, diciamo che è quasi sempre funzionale. Qui abbiamo, secondo me, la più grande intuizione di Rock of Age è proprio entrare nello spirito degli anni Ottanta, quegli anni che sono molto ben fotografati dalla presenza di Bon Jovi, come dicevi tu, e che qui insomma trovano la loro summa più atletica, fisica, ma anche performativa in Tom Cruise, che poi ci racconta il passaggio della musica da performance musicale a performance di arte visiva, quasi, no? Cioè, da sostanzialmente Jimi Hendrix a Madonna, e si è passati proprio attraverso i Bon Jovi, gli Stacey Jacks, che imparano, diciamo i Freddie Mercury anche, che imparano a occupare il palco in maniera atletica, in maniera fisica, a percorrerlo tutto, ad avere delle movenze plastiche. E questa forse è la cosa più divertente. Non a caso, secondo me, sta entusiasmando molto coloro che gli anni Ottanta li hanno vissuti da fruitori di quel tipo di musica e di quel tipo di performance. Il film non è straordinario, però provate voi a non battere il piede, a non esaltarvi con questo Cruise, che onestamente ci mette veramente ogni volta l'anima. Forse non sarà il più grande attore del mondo, ma è uno che ci mette la faccia e tutto quel fisico che, bontà sua, alla sua età è straordinario, e alla fine è un film che ti fa uscire pieno di quel rock melodico, che anch'esso non era forse la migliore musica mai scritta, ma di sicuro è una delle musiche più ballate e cantate che ci siano state nel dopoguerra. E allora andiamo a sentire Tom Cruise proprio parlare della preparazione di questo film. Non ci sono state parti che non mi sono piaciute. Quando giri un film non ci sono parti brutte, ci sono sfide. È stato davvero divertente, perché ho dovuto esercitarmi per più di 5 ore al giorno per imparare a cantare, mesi di prove per imparare a ballare, e ho lavorato con Adam sulla costruzione del personaggio. È stato davvero divertente. Dicevamo nel cast anche Catherine Zeta-Jones, che racconta così il suo rapporto con gli anni Ottanta. La musica è stata straordinaria, parla da sola. La moda era un po' bizzarra. Non metterei di nuovo alcune di quelle spalline o cose del genere. Ma è stato un periodo innocente. E in quel periodo, a Los Angeles, è nato un tipo di suono ben specifico. Eccoci ancora insieme alla Rosa Purpura, la seconda parte del nostro programma. Parliamo di un remake. Remake di un film che è stato mitico, possiamo sprecare per una volta questo aggettivo, per quanto riguarda la storia del thriller barra horror barra fantascienza, perché poi era proprio quel periodo in cui i generi si mischiavano molto, quando si tendeva a fare l'horror soprannaturale in un certo senso. Stiamo parlando de La Cosa. Era il 1982 quando John Carpenter raccontava quella spedizione in Antartide di scienziati che dovevano studiare c'era una base in Antartide, dovevano studiare uno strano ritrovamento, quello di una sorta di relitto trovato sotto ghiaccio, sotto tanto ghiaccio, e che si rivelava essere fonte di un certo tipo di disagio, ovvero di una presenza dell'altro mondo soprannaturale che piano piano entrava dentro nei vari protagonisti, nei personaggi, negli animali, nelle persone, e li metteva uno contro l'altro. Il classico cinema dell'assedio, se vogliamo, alla John Carpenter, che ha reso grande questo regista e che adesso torna con un remake tale e quale 30 anni dopo, che è diretto da Mathis van Heiningen, ha un cast non particolarmente rinomato e che percorre, come del resto il cinema americano ci ha insegnato con tanto horror degli ultimi anni, passo passo appunto la storia, la vicenda originale. Sentiamo la clip. 48 ore fa abbiamo scoperto qualcosa di incredibile. Che avete trovato? C'è una struttura. In Antartide? E un esemplare. Sul serio? Siamo atterrati. Lei è Kate Lloyd, paleontologa alla Columbia. Vi mostro perché avete volato per 10.000 miglia. Riteniamo che sia qui da 100.000 anni. Voglio prendere un campione di tessuto. Crede che sia una buona idea? Sì, certo. Voi, amici miei, verrete ricordati come gli artefici di questa scoperta. Mio Dio. Qualcuno è stato attaccato. Mi sembra che qui stiano tutti bene. O qualcuno è miracolosamente guarito. O qualcuno non è quello che sembra. E qualcuno non è quello che sembra, questa è la risposta esatta. Boris, dicevamo appunto la cosa, come sempre di fronte a questi remake il mio atteggiamento è un po' perplesso, perché mi chiedo se non sia bene al limite ritirare fuori, lo dico con domanda retorica, ma insomma ritirare fuori gli originali piuttosto che vedere delle fotocopie sbiadite. Insomma, se uno deve incrociare per la prima volta la cosa, è bene che guardi Carpenter per capire di cosa stiamo parlando. Poi mi si risponde ovviamente che il pubblico giovane ha bisogno di nuovi stilemi, di una nuova estetica, eccetera eccetera, però alla fine i remake in questo caso, come in questo caso, sono veramente pedissequi, se non sono fatti esattamente come l'originale. Ma sono pienamente d'accordo, io faccio davvero fatica come te a capire il senso di queste operazioni, che mi sembrano tra il necrofilo e il plagio. Francamente non mi sembrano dare nulla di più al racconto che era stato presentato come un prequel, poi come dici tu, tranne poche situazioni, un contesto narrativo leggermente diverso, tale e quale. Tra l'altro il regista è pure bravo, aveva fatto Red Rain, era uno che insomma secondo me aveva la possibilità di misurarsi con qualcosa di più complesso, però è anche vero che poi spesso questi film servono come trampolino, e lungi da me criticare un regista che comunque coglie l'occasione di utilizzare un brand per migliorare la propria carriera. Certo è che appunto dovessi avere qualcuno che ha voglia di vedere la cosa, gli metterei in mano il DVD di John Carpenter, gli direi di cercarsi magari uno schermo abbastanza grande per godersi la grande capacità registica del regista, e mai mi sognerei di dirgli no, ma vai a vederti questo surrogato che comunque è valido. È un film che certo, se non fosse il remake della cosa, sarebbe anche dignitoso, ma ovviamente viene totalmente schiacciato dal confronto con l'originale. E allora, questo è la cosa nelle sale cinematografiche italiane. Adesso andiamo a parlare un po' di... anzi, andiamo a giocare insieme con la prima traccia del game di oggi. Chiamo la canio. Maccherone, m'hai provocato e io ti distruggo adesso, maccherone. Io me ne magno. La Rosa Purpurea @radio24.it. Attenzione, di che film si tratta? Diteci il vostro nome, il vostro cognome e il titolo del film. Più tardi ci saranno altre due possibilità. Take to the highway, won't you lend me your name? Your way and my way seem to be one and the same. La voce di James Taylor per introdurre il nuovo film di cui vogliamo parlarvi, il cammino per Santiago, un cammino che porta appunto nella località di Santiago de Compostela, 800 km tra Saint-Jean-de-Pied in Francia, fino alla basilica dove si dice dimorino le spoglie di San Giacomo. Un cammino percorso ogni anno da migliaia di pellegrini di ogni età, provenienza, condizione sociale, addirittura di ogni fede e con ogni motivazione personale o spirituale che sia. C'è un padre, Tom, un anziano e facoltoso medico californiano che vive agiato fra visite e campi da golf. Un bravo uomo con una ferita però dentro. Suo figlio quarantenne non è quello che lui avrebbe voluto e non è nemmeno quello che potrebbe essere. Daniel è un'anima tormentata e alla carriera universitaria ha preferito viaggiare, vedere il mondo. Per questo era partito per l'Europa, per mettere un oceano fra sé e le ambizioni paterne. Dovremmo partire insieme. Sì, certo. Torna indietro e fa le valigie. Prendi il passaporto e lascia le mazze da golf. Un viaggio padre e figlio, sarà bello. Quando pensi di tornare? Non lo so. Quindi niente previsioni? Ho accettato di farmi accompagnare all'aeroporto, a patto che non mi avresti fatto la paternale. Ho mentito. La gente normale non può concedersi il lusso di fare i bagagli e lasciarsi tutto alle spalle. Non sono una persona normale. Se non sei d'accordo, va bene. Ma non giudicare ciò che faccio. La mia vita forse non ti sembrerà un granché, ma è quella che mi sono scelta. La vita non si sceglie, papà. Ma si vive. Un giorno la telefonata che non ti aspetti arriva proprio dalla Francia mentre sei sul green con gli amici. Suo figlio è morto, un incidente. È stato colto dal maltempo mentre si trovava sul cammino per Santiago. Primo giorno, primo tratto, sfortuna. E allora anche Tom prende l'aereo, attraversa l'oceano e si trova catapultato nelle ultime ore della vita di quel figlio, così diverso e così amato. Che cosa stava facendo? Era in pellegrinaggio lungo il cammino. Percorreva la strada che conduce a Santiago. Persone di ogni estrazione sociale, fede ed età decidono di percorrere quel cammino che dai Pirenei francesi conduce a Santiago de Compostela. Da oltre 1000 anni si percorrono 800 chilometri da est a ovest nel nord della Spagna. A noi credenti è stato insegnato che le spoglie di San Giacomo, l'apostolo di Gesù, riposano a Santiago. Così andiamo in pellegrinaggio. Ed era questo che faceva suo figlio Daniel. Come mai era da solo? Molti scelgono di partire da soli. Il cammino è un viaggio molto personale, Monsieur Avery. E allora la decisione sarà a Tom a realizzare il sogno di Daniel, col suo zaino, i suoi effetti, la sua tessera del pellegrino da timbrare a ogni tappa e soprattutto con le sue ceneri da disperdere qua e là lungo il cammino per segnare indelebilmente la sua presenza in quella terra aspra e agognata. È un tipo taciturno, è un po' buffo l'americano Tom, è il più anziano di tutti, sbaglia strada, a volte non sa dove andare, non è certo abituato a dormire in camerate da 100 brande. Ma il cammino per Santiago è magico. Le persone valgono per quello che sono, spogliate di tutte le sovrastrutture della vita quotidiana, soldi, rango, professione, vizi. Sul cammino sono tutti uguali e così sul cammino di Tom, volente o nolente, si aggregano altri personaggi, altre anime in pena che si sono messe in viaggio per ritrovare se stesse. Ma guarda, Don Chisciotte e Sancho Pancia. E tu sei la bella Dulcinea? Buon cammino, amico pellegrino. Grazie, buon cammino. Mi chiamo Jost, sono di Amsterdam. Olandese? Hai qualche droga? Oh, oh, mi piace la ragazza. Presto cambierai idea, credimi. Vi conoscete? Più o meno. Che cosa ti serve? Qualcosa per dormire. Soffro di insonnia da almeno, non so, un paio di anni. Mi dispiacerebbe concludere l'accordo camminando? Ho un sonnifero. O anche qualcosa di più forte, se vuoi. Mi piace il ragazzo. Presto cambierai idea, credimi. Sono Sara, il canadese che vuole smettere di fumare, ma scopriremo che ha ben altre cicatrici addosso. Jost, l'avete sentito, l'olandese sempre allegro, invadente, pieno di ogni tipo di droga, che dice di voler perdere chili perché sua moglie con quella pancia non lo vuole più. E poi Jack, l'irlandese, scrittore un po' supponente, in cerca di ispirazione. Insieme i quattro attraverseranno valli, cadranno dentro fiumi, si troveranno in accampamenti gitani, verranno derubati, litigheranno e berranno insieme un bicchiere. Dopo 2 mesi di cammino saranno cambiati per sempre e per Tom sarà compiuta la missione in nome del figlio. Emilio Esteves è Martin Sheen, figlio e padre, regista il primo, anche se recita pure il ruolo di Daniel, attore e che attore il secondo. Una prova grande e commovente per il capitano Willard di Apocalypse Now, capace di calarsi in quella metamorfosi umana raccontata dal film. La regia di Esteves, alla quarta prova dietro la macchina da presa, è convenzionale, non cerca colpi d'ala, prosegue in linea cronologica, ma è piena di lirismo, di sguardi incantati sui paesaggi del camino e dentro i cuori dei pellegrini. E alla fine ti viene voglia di prendere zaino e sacco a pelo e di metterti alla prova anche tu almeno una volta su quella strada, un cammino che ognuno di noi ha una ragione per percorrere e il cui significato lo stesso Martin Sheen spiega così. The meaning of pilgrimage is that we make a physical journey outwardly, in other words, il significato di pellegrinaggio è il rifacimento di un viaggio fisico. Sai, devi spostarti da un posto all'altro e durante il cammino devi resistere. A volte è un viaggio molto doloroso. Sei esposto al clima, agli elementi naturali. Non ci sono stanze private. Molto spesso non ci sono posti tranquilli. Può essere davvero dura e devi portare tutto con te. E sebbene cammini da solo, sei parte di una comunità. Questa è la prima cosa che capisci. Non puoi fare nulla di tutto questo da solo. Non puoi prepararti da mangiare. Non sai come organizzarti per dormire e badare a te stesso. Hai bisogno degli altri. Ma alla fine devi camminare da solo, perché il pellegrinaggio è tanto un viaggio interiore quanto esteriore. Più ti avvicini a destinazione, in questo caso Santiago, meglio conosci te stesso. The closer we get to who we are. Eccoci ancora insieme, terza parte del programma, con un'altra novità al cinema, una commedia che arriva dalla Francia, guarda un po', si intitola L'amore dura 3 anni, un titolo che da una parte è tutto un programma, dall'altra anche un po' l'assunto attorno al quale gira tutto questo film. Entriamo subito in clima con la clip. Siete innamorati? Sembriamo così stupidi? Beh, ecco. Devi smetterla di mandarmi tutti i giorni 50 sms. Sono sempre la moglie di tuo cugino. Sì, ma è di secondo grado, tranquilla. L'importante è che non la chiami più. Alice? Sono Mark. Con lei la vita ha un gusto di mango. O di papaya. Li confondo sempre. Allora, ho letto il suo manoscritto. L'amore dura 3 anni. Adoro il titolo. È davvero idiota. Sono ben 3 anni che stiamo insieme. È un po' lungo da spiegare, ma la mia ragazza non sa che l'ho scritto io. Però non sono io l'autore. Te lo giuro, l'ho scritto prima di incontrarti. Il libro più misogino dell'anno. Anche il titolo è falso, dura meno di 3 anni e non è neanche amore. E allora questo è un po' un estratto del film, insomma, storia di un critico letterario che ha avuto una storia d'amore che lo ha lasciato ferito, che è durata appunto 3 anni, di tanto ne ha impiegato il suo matrimonio a infrangersi, e allora... appunto ha scritto e ha come dire coniato questa sorta di concetto: l'amore dura 3 anni. Chiaramente si innamorerà e chi si innamorerà di lui riterrà che invece sti 3 anni siano qualcosa di non sopportabile. Commedia degli equivoci, commedia situazionista, potremmo dire, questa del film L'amore dura 3 anni, diretto da Frédéric Bagbeder, una commedia standard, in un certo senso potremmo dire, Boris, che fa parte appunto di questa incredibile e nuova vena produttiva commediara che la Francia ha intrapreso, ma che non mi sembra che abbia punte d'eccellenza particolari, almeno in questo caso. No, credo che al massimo punto d'eccellenza sia proprio negli incassi, che secondo me sono superiori ai meriti. Tra l'altro questa, nella commedia standard sentimentale dei francesi, è qualcosa di ancora più standard, cioè prendi un simpatico maschilista molto brillante, che in verità è un uomo ferito, insomma sembra una canzone di Ferradini, e poi gli metti davanti una donna meravigliosa che ha tutti i pregi, compreso quello di essere bellissima, sexy, simpatica, divertente, e chiaramente lui si innamorerà e andrà contro tutto quello che lui fino a quel momento ha detto. Fin troppo facile come struttura narrativa, e il problema, come già successo secondo me in altri in altre commedie di questo tipo, è che sostanzialmente dopo aver sentito il trailer hai visto il film, perché dopo aver consumato l'intuizione anche per una decina di minuti, una ventina di minuti, dopo quelle 3-4 battute che valgono la pena di essere sentite, il film si sgonfia inevitabilmente perché non ha altro se non questo confronto un po' lezioso. E francamente mi chiedo distributivamente che senso abbia un film del genere. Io torno da Bruxelles e a Bruxelles era già sugli scaffali con tanto di extra e DVD. E noi lo facciamo uscire con tantissimo ritardo e onestamente non è un capolavoro, ma non ci si avvicina neanche un po', e questo faccio fatica a capirne il motivo. Però ecco, non mi sento di consigliarlo perché trovo che ne avete già sicuramente viste tantissime e molto migliori. Ma tra l'altro penso che sia arrivi proprio perché appunto adesso c'è questa da un annetto a questa parte questa ritrovata vena, che poi non è sempre una vena positiva, della commedia francese, e allora fa un po' tendenza anche portare a casa nei listini delle case di distribuzione commedie francesi, come se poi potessero funzionare tutte. Insomma, non è così, siamo veramente, come dire, assediati da questo clima, da queste commedie parlatissime, da questi personaggi sempre un po' isterici. Ecco, forse dopo un po' quelle di qualità sono quelle di qualità, quelle di non di qualità potrebbero anche restare nei magazzini, non se ne dispiacerebbe nessuno. Allora, a questo punto noi andiamo però avanti, perché andiamo a sentire la seconda traccia del game di oggi. Sbagli le taglie, guarda che maniche che c'hai. Ma sul colore non puoi di niente. Oh, lo sai a chi l'ho visto sto colore io? L'altra sera in televisione, a Iglesias, ce l'avevo uguale proprio. E come no? E questa traccia vi aiuterà a non cadere in errore, se non siete già caduti in errore chiaramente con la prima. La Rosa Purpurea, @radio24.it, diteci di che film si tratta, scriveteci il vostro nome e indirizzo per provare a vincere l'edizione in un video di questo film. Più tardi ci sarà l'ultima possibilità. Va bene, esaurita allora l'ampia parentesi sulle novità in sala anche in questo fine settimana, adesso ci dedichiamo a un festival che ha molti pregi, tra i quali adesso la nostra ospite che sta per essere in collegamento con noi, ma che è già in collegamento con noi in realtà, mi bacchetterà e direi che intanto è a Trieste. Lo so che questo non è merito di Chiara che è in collegamento, ma insomma un festival a Trieste è sempre una gran bella cosa, soprattutto d'estate, soprattutto a luglio, con il mare di fronte. Stiamo parlando di Mare Metraggio, adesso fuori di scherzo, Mare Metraggio che ancora una volta è riuscito, pur con le ristrettezze che attanagliano tutti i festival italiani eccetera, a mettere insieme un cartellone degno di note. Allora io saluto Chiara Omero, che è con noi in collegamento e che è, oltre che, come dire, direttore, ma insomma un po' l'anima di questo festival triestino Mare Metraggio. Ciao Chiara. Ciao a tutti, buongiorno. Allora, dicevo, non è che il merito principale sia di essere a Trieste, però insomma è un bel vantaggio rispetto ad altri festival. Sì, ma insomma, poi quando ci dicono siete lassù in alto, a destra, in fondo, siete poco centrali. Dietro l'angolo. Ecco, però proprio la posizione di Trieste dietro l'angolo ne ha fatto sempre un crogiuolo di culture fondamentale, e questo clima si respira anche in Mare Metraggio, che è soprattutto nella parte che riguarda il cinema breve, il cortometraggio, dove ci saranno 17 opere di animazione in gara più altri 9 corti registi italiani, insomma, dicevo, vede arrivare i suoi lavori da molti di quei paesi su cui Trieste affaccia, dalla Croazia alle Repubbliche Baltiche, alla Repubblica Ceca, all'Estonia, oltre ad altri paesi ad alta vocazione cinematografica. Però quello di cui volevo parlare con te, Chiara, era un po' inquadrare il festival sotto l'altro profilo, cioè quello delle opere prime italiane, perché Mare Metraggio è sempre una grande occasione per rivedere il meglio degli esordi italiani della stagione che ormai si è praticamente conclusa o si sta concludendo, anche per fare un po' un consuntivo, tirare una riga. Che anno è stato questo per gli esordi italiani al cinema? Guarda, a me sono arrivate 34 opere prime in selezione e devo dire che ho avuto grossissime difficoltà, perché come dicevi tu prima, purtroppo, ahimè, visti i tagli di contributi, di sponsorizzazione eccetera, l'anno nero che stiamo vivendo tutti, ahimè, in Italia quest'anno, e ho potuto selezionarne solamente 9, che comunque è un numero considerevole, e sono veramente, oltretutto a Trieste anche un po' perché, come dicevo prima, siamo qua in fondo a destra, per cui qualche volta non arrivano film al di là di Padova, sembra che si esaurisca tutto, soprattutto per i film che magari escono in poche copie in sala, e quindi al pubblico triestino mostriamo dei film, qualcuno è uscito un paio di giorni, qualcuno non è uscito proprio per nulla, per cui è sicuramente un po' una scoperta. 9 film, da La Bala, Kryptonite nella borsa, Il paese delle spose infelici, per arrivare ad Acab, Qualche nuvola, che tra l'altro è in uscita contemporaneamente al festival, per cui facciamo una sorta di sicuramente anteprima su Trieste, tante tematiche assolutamente diverse, la metà di questi film casualmente girati al sud, per cui effettivamente uno sguardo sulla cinematografia italiana che evidentemente, forse anche perché c'è una Puglia Film Commission che funziona molto bene, come peraltro anche la nostra, però insomma è spesso location per film importanti, e 4 film di questi tratti da romanzi, tutto casualmente, per cui effettivamente io direi che è un anno molto prolifico, un po' sfortunato per quel che riguarda la distribuzione, ma questo purtroppo non è una novità. Esatto, il problema poi di questi film, una volta fare opere prime italiane forse era più difficile a livello produttivo, ma un po' più gratificante a livello poi di esposizione, visibilità, distribuzione. Adesso è diventato il contrario, non che sia diventato facile farli, sicuramente è diventato più difficile trovare un mercato e, ahimè, un pubblico per questo nostro cinema giovane italiano, o comunque cinema esordiente italiano, perché ormai la globalizzazione ci ha, come dire, anche portato a globalizzare i gusti, e molto spesso determinate opere vengono considerate piccole, quindi forse come dire, evitabili. In realtà le cose non stanno così, e meno male che c'è un pubblico e ci sono anche dei festival come il vostro che ce lo ricordano. Brevemente, Chiara, perché sai, quello che fa rabbia è che poi alle proiezioni c'è il pienone ogni sera a vedere questi film, per cui ti chiedi ma perché? Assolutamente, ma infatti il pubblico c'è sicuramente, che abbiamo smesso, dico abbiamo come sistema, non certo noi, abbiamo smesso di cercarlo, anzi da questo programma lo cerchiamo sempre quel pubblico per quei film, però qualcuno a un certo punto si è arreso, invece c'è, ma faccio noi proprio... Noi tenacemente andiamo avanti. Esempi anche recenti, a Milano la rassegna solita Cane dintorni, e poi a settembre sarà il caso delle Vie del Cinema, dei film di Venezia. A Milano hanno decine di migliaia di spettatori alla fine, quindi è evidente che il pubblico c'è, forse appunto c'è un po' troppa di pigrizia, ci sono meccanismi troppo ingessati per andarlo a cercare. Ti chiedo un'altra cosa brevemente, perché il tempo è tiranno, Chiara, si muoverà attorno anche a queste opere prime qualche personaggio del cinema in questa settimana triestina? Beh, guarda, casualmente in 2 opere prime che sono in concorso c'è Michela Like, sul quale noi facciamo la prospettiva, anche perché vecchia conoscenza di Mare Metraggio, da quando vinse da noi con il suo cortometraggio il torneo da regista, ed è sicuramente uno dei volti emergenti. Poi ci sarà un incontro con Marco Giallini, che è finalmente emerso, abbiamo detto noi, quest'anno, e poi Saverio Costanzo, che è in giuria, Ambra Angiolini, Daniele Guaglianone, Francesco Carofiglio, proprio perché mi piaceva da scrittore avere un occhio di riguardo così nei confronti delle opere prime che sono tratti dai libri, per cui sicuramente, nonostante tutto, tanti ospiti anche quest'anno. Grazie Chiara, buon divertimento e buon lavoro a Mare Metraggio Trieste dal 1 al 7 luglio. Grazie mille, grazie a voi. Quarta parte della Rosa Purpurea, come sempre, dedicata ai film in casa, da vedere in casa, che sia in TV, che sia con un DVD o un Blu-ray. Allora cominciamo a spulciare i palinsesti televisivi per le proposte cinematografiche della prossima settimana, insieme agli amici di Film TV, il settimanale di cinema e televisione e di cinema in televisione. È con noi Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco, e ben ritrovati con le nostre segnalazioni. Cominciamo, oggi ho scelto 2 film fra le proposte che mi ha avanzato il buon Giulio, 2 film che mi stanno molto a cuore, ecco, lo dico perché soprattutto il primo, L'arte del sogno, appartiene a un regista artigiano fantasista, un vero vulcano del cinema internazionale come Michel Gondry, che con L'arte del sogno forse ha toccato il vertice del suo fare cinema manuale, potrei dire, nel senso che proprio le cose, le scenografie sono costruite con materiali quasi di risulta. Insomma, è un film davvero immaginifico, questo L'arte del sogno di Gondry. Lunedì alle 8:35 su Rai Movie, arrivato a Parigi per lavorare in un'azienda che produce calendari, Stefan conduce una vita monotona e che compensa appunto con i suoi incredibili sogni. Un giorno conosce Stephanie, la sua dirimpettaia, e se ne innamora, ma non sarà assolutamente un rapporto facile. Gondry aveva concepito questa idea prima di Se mi lasci ti cancello, e le due pellicole hanno parecchie affinità, sono entrambi poemi sull'amore concretamente impossibile, e sono film felici sull'infelicità che si nutre delle immagini, dei pensieri, dei ricordi che scaturiscono quando stiamo per addormentarci, e Gondry mette e fa cinema come se fosse la stoffa artigianale di cui sono fatti i sogni. E questo è il racconto dell'arte del sogno, quindi lunedì 2 luglio, Rai Movie, 8:35 del mattino. Un altro film che ha avuto un grosso impatto nel Festival di Venezia, ricordo, in cui fu presentato, ci furono anche molte polemiche, ma è un film davvero di grande merito cinematografico e narrativo. Stiamo parlando di Couscous, titolo originale Le Grain et le Mulet, il grano e il pesce, sarebbe il grano e il cefalo, volendo stare a vedere che tipo di pesce racconta Abdel Kechiche in questo affresco di uno spaccato sociale ben preciso della Francia. Di Couscous, giovedì 5 luglio su Rai Movie alle 2:15 della notte, storia di un sessantenne di origine maghrebina che perde il lavoro, è divorziato con una famiglia numerosa a cui pensare e decide di realizzare il suo sogno, ovvero aprire un ristorante specializzato in couscous con pesce e coinvolgere i parenti nell'attività. È la splendida conferma del talento dell'autore di un altro grandissimo film che si intitolava La Schivata, ed è un'opera che sa assolutamente essere autenticamente popolare, con tantissimi punti di vista, un movimento continuo, una danza di anime, corpi, sensazioni, sguardi, come se fosse un musical maghrebino, un trionfo di forme e di idee con personaggi bellissimi e con uno sviluppo inatteso e sorprendente, ed è secondo me il capolavoro di Kechiche, che per quanto mi riguarda è uno dei migliori registi europei. E tra l'altro vi sfido a finire la visione del film senza avere voglia di mettere su un couscous, perché c'è tutto il rituale della preparazione che è davvero straordinario. 5 luglio, giovedì, Rai Movie, 2:15 della notte, Couscous di Abdel Kechiche. Grazie a Giulio San Giorgio. Grazie a te, Franco, e un saluto ai radioascoltatori. Alla prossima settimana. E allora adesso è il momento di giocare per la terza e ultima volta con il game di oggi. Sentiamo. Manuel, senti, non è che avrei lasciato da te la mia agendina? Sì, e infatti ce l'ho proprio qua. C'era il tuo numero e allora ho pensato di chiamarti. Senti, siccome io ci avrei scritto tutti i miei appuntamenti, non è che potrei passare più tardi da te per raggiungerti e riprenderla? E allora, diteci di che film si tratta. La voce, non dico quella femminile, l'altra, comincia a essere abbastanza riconoscibile. La Rosa Purpurea, chiocciola radio24.it, vostro nome, cognome e indirizzo per provare a vincere l'edizione un video di questo film. Settimana prossima scopriremo di che film si trattava. Lo facciamo adesso con il game di 7 giorni fa. Justice designato, Peña in panchina, Atteberg in prima e chiunque ma non Magnante primo dei rilievi. Tu vuoi Peña in panchina? Sì, esatto. Così fai giocare Atti. Peña non è solo il miglior prima base del roster, è anche l'unico prima Stammi base Stammi a sentire. Roster. Atti arriva in base, più di Peña. E allora si trattava di Moneyball, film uscito proprio in questa stagione cinematografica, che si inserisce nel ricco filone di film sul baseball, che in America non è solo uno sport ma è anche una filosofia, se vogliamo. I vincitori verranno contattati dalla nostra segreteria e noi invece ne parliamo di questa edizione che abbiamo messo in palio con il nostro Claudio Pofi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Allora, edizione d'eccellenza da parte di Sony Pictures Home Entertainment. Il Blu-ray offre una visione del film con resa praticamente pari a quella della sala cinema e finalmente traccia di DTS ad alta risoluzione non solo per l'inglese ma anche in italiano. Come extra segnalo scene eliminate, ci sono 4 approfondimenti sulla lavorazione, però attenzione perché 2 sono in esclusiva per l'edizione Blu-ray con 21 minuti sul reclutamento del cast e l'adattamento del libro Moneyball da cui è stato tratto il film. Un film tra l'altro con un ottimo cast, un solido Brad Pitt, il sempre interessante Philip Seymour Hoffman, ma soprattutto Jonah Hill nei panni dell'assistente un po' nerd che è diventato da lì in poi davvero un attore quasi irrinunciabile per molto cinema americano e che recentemente recentemente, tra l'altro è tornato nelle sale italiane con 21 Jump Street. Andiamo avanti perché dobbiamo dare invece conto delle recensioni, delle segnalazioni per le novità in un video di questo fine settimana, cominciando a tornare indietro di qualche anno, quando eravamo tutti un po' più giovani e non avevamo ancora pensato di poter essere famosi. Sono cose sicure, la gente si sposa sempre e i ragazzi si crescono. Senti, a me non mi piace il casino. Penserò io a tutto quanto, vedrai. Farò tutto quello che deve fare un manager, tutto. Organizzerò il giro d'affare, viaggi, alberghi, costumi, ogni cosa. Voglio solo il 10% sull'orto. Poi facciamo i mezzi con l'incasso dello spettacolo. Cos'è questa storia dei costumi? Oh, niente di eccezionale. Qualche paillette, roba così. Qualcosa di trasparente per me, mi ci vuole. Magari un po' scollato, la gente vuole vedere. Insomma, il suono può essere anche da sballo, ma la cosa più importante sono le tette, quelle fanno l'incasso. A New York, dopo aver superato rigide selezioni, un gruppo di giovani entra a far parte della High School of Performing Arts, un'università dell'arte che in 4 anni si prefigge di preparare cantanti, musicisti, attori e ballerini. Tra sogni di gloria e passione, spesso coniugati dal desiderio di fuga da una dura realtà sociale, il film racconta con intensità e trasporto la vita di alcuni degli studenti anno dopo anno, seguendone con emotività il passaggio dall'adolescenza alla maturità non solo artistica. Cult movie di Alan Parker, targato 1980, finalmente in alta definizione grazie a Warner Home Video. Sorpresa per l'ottima qualità delle immagini, l'audio è quello originale monofonico dell'epoca in italiano, con traccia Dolby ad alta risoluzione multicanale solo per l'inglese, che è assolutamente da provare per gustarsi le bellissime musiche del film. Tra gli extra segnaliamo commento al film del regista purtroppo non sottotitolato, c'è un making of e interviste a cast e tecnici che sono attivabili durante la visione del film. Invece torniamo indietro anche in questo caso, alla fine degli anni 70, nel 75 Spielberg con Lo Squalo aveva incassato di tutto e ovunque, e allora quasi parodisticamente Joe Dante gli rifà una sorta di verso con Piranha. Acqua salata. Cosa? Ora mi ricordo che era acqua salata. Ma dove? Nella vasca al centro ricerche. Ero rimasto sorpreso allora, ma poi me lo sono dimenticato. E allora? I piranha sono pesci d'acqua dolce, il che significa che Hawk aveva sviluppato un ibrido che vive in acqua dolce e salata, più o meno come i salmoni. Ecco perché scendono giù per la corrente. E se arrivassero all'oceano? Non ci sarebbe modo di fermarli. E certamente infesterebbero tutti i corsi d'acqua. In seguito alla scomparsa di 2 giovani campeggiatori, un'investigatrice scopre l'esistenza di ricerche scientifiche segrete svolte dall'esercito al fine di sviluppare una nuova specie di piranha da impiegare in Vietnam e in grado di vivere in qualsiasi corso d'acqua. Con una crescita ormai fuori controllo inizia una corsa contro il tempo per evitare che una zona balneare in Texas diventi il fertile terreno di caccia dei famelici pesci predatori. Diretto da Joe Dante e prodotto dal grande Roger Corman, nel 1978 l'horror movie a basso budget e intriso di ironia col tempo è diventato un cult per gli amanti del genere. L'edizione Blu-ray di Pulp Video è di qualità purtroppo altalenante, con una definizione relativamente differente rispetto a quella di un comune DVD. Tracce solo Dolby Digital, di cui la migliore risulta all'originale inglese con maggiore sostanza per i dialoghi. Come extra ci sono 7 minuti di errori sul set. E allora con questo noi chiudiamo la nostra trasmissione. Grazie a Claudio Pofi per essere stato con noi. Appuntamento fra 7 giorni. Ciao, a presto. Siamo arrivati alla fine della nostra corsa, l'appuntamento va alla settimana prossima, sabato alle 18, domenica alle 15 sono i nostri orari, grazie a Giorgio De Luca e a Filippo Reggi che ci hanno aiutato in regia e alla console. Un saluto da Franco D'Assisi.